Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Spingono carrozzine, distribuiscono pasti, regalano ascolto, gesti e sorrisi. Sono ripagati da uno sguardo, da un sorriso, da una parola. Chi sono? Che cosa hanno di diverso? Perché e soprattutto cosa li spinge a ritagliare spazi del loro quotidiano da condividere con persone con cui non hanno legami di sangue, di amicizia, di parentela? Ve lo siete chiesti? Avete una risposta? 800 24 0024. Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per ottenere riconoscenza. Ma questo segreto di desiderio guasta i loro toni. E ci sono quelli che hanno poco e danno molto. Sono quelli che credono nella vita e nella generosità della vita. E il loro scrigno non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia e quella gioia è la loro ricompensa. E ci sono quelli che danno con dolore e questo dolore è il loro battesimo. È bene dare quanto si è richiesti, ma è meglio dare quando, pur non essendo richiesti, si comprendono i bisogni degli altri. Tutto ciò che hai, un giorno o l'altro, sarà dato via. Perciò, da adesso, così che la stagione del dare sia la tua, non quella dei tuoi eredi. Khalil Gibran. Che cosa hanno allora quelli che hanno poco e danno molto, quelli che credono nella vita e nella generosità della vita, quelli che danno con gioia? La ricerca ha cercato di rispondere a questa domanda. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Maria Giovanna Luini. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Scrittore medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia. Questione di testa o di cuore, dottoressa? Tutte e due, perché la generosità senz'altro è questione di testa, perché si è visto che le persone genuinamente generose hanno una parte del cervello, in particolare nella materia grigia, più sviluppata, cioè hanno un'area del cervello che è più grande rispetto a quella delle persone invece non generose. Oltretutto parliamo di persone generose, ma anche di persone capaci di leggere l'altro, perché quella zona del cervello più grande mette insieme la capacità di indovinare come si sente l'altro, di intuire il suo stato d'animo e la generosità. Quindi questione di cervello, ma anche di cuore, perché noi possiamo agire per imparare ancora più generosità. Qualche anno fa un'importante ricerca pubblicata su una rivista scientifica prestigiosa ha dimostrato in modo convincente che siamo proprio programmati biologicamente con un gene dell'altruismo, concetto che viene sottolineato spesso anche dal professor Veronesi. È vero, perché non so come mai vige l'idea che i bambini, per esempio, siano egoisti. Perché? Perché i geni in teoria sono egoisti. Ma in realtà il senso dell'egoismo dei geni è un altro, è il senso della conservazione della specie. La persona geneticamente nasce generosa. Certo, esiste un gene specifico. Se io nasco col gene della generosità, sono generosa. Altrimenti, se quel gene non è espresso, lo sono un po' meno. 800 24 0024, ricordo il nostro numero verde se volete partecipare e raccontarci, se siete volontari, se volete raccontarci la vostra esperienza, che cosa ha aggiunto questa scelta alla vostra vita, al vostro equilibrio, quali cambiamenti ha prodotto, quale bisogno ha soddisfatto. Ma oggi mi piacerebbe sentire anche la testimonianza di chi proprio grazie a un volontario ha ritrovato benessere. Dottoressa, lei lavora in ospedale, sì. Quindi viene a contatto con un mondo in cui anche l'altruismo, il volontariato hanno sicuramente un peso importante. Sì, assolutamente fondamentale, anzi voglio ricordare tutti i volontari che ogni giorno si spendono e danno tantissimo. La verità è che dare è un bisogno primario, non solo perché tanta gente nasce con quel gene della generosità che noi dicevamo, ma perché esiste una gratificazione, nel senso che dare significa anche in qualche modo trovare un senso alla propria vita. Dicevo che il tratto genetico alla generosità esiste. Chi non ce l'ha non è che sia ingeneroso a vita, può imparare che la generosità può essere un dono anche per se stessi. Tra l'altro vorrei domandare, se possibile, a chi ci ascolta, se mai è accaduto di fare un gesto di generosità realmente gratis, perché questa è la domanda fondamentale. La generosità vera è quella che non si aspetta nulla. Ci ricordiamo un episodio in cui abbiamo dato qualcosa sapendo che non avremmo ricevuto niente in cambio? Grazie dottoressa Luini, proveremo a rispondere a questa domanda che sarà un po' il fil rouge della nostra trasmissione. L'aspettiamo presto qui, buona giornata. Grazie, grazie. Buona giornata, grazie. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia risalendo, vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di E in linea con noi abbiamo il nostro dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo nonché esperto del nostro Daily Lab. Buongiorno dottor Aquilar, bentornato. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Dottore, gratuità, rispetto per la persona umana, solidarietà. Questi sono i tre grandi valori che anche la letteratura sul volontariato documenta presenti in tutte le organizzazioni, grandi, piccole, confessionali o meno. C'è anche però una lettura psicologica che spiega il desiderio di dedicarsi agli altri. Certo. Certo, perché l'accudimento, in qualche modo il dare una mano alle persone che ci appaiono più deboli o meno sagge o in difficoltà, e non solo se sono i nostri discendenti diretti, è parte, come si diceva prima, del nostro patrimonio psicobiologico e serve alla difesa della specie. Se io aiuto qualcuno che appartiene alla mia stessa specie umana, sto collaborando al mantenimento e al benessere della specie a cui apparteniamo. E quindi possiamo, come dire, fermarci a vedere non solo i vari aspetti del volontariato così come sono strutturati in questo momento nella nostra società, che sono tanti, diversi e apparentemente non quelli a cui uno pensa immediatamente, e poi possiamo provare a inserire questa idea psicobiologica del volontariato come modo di dare una mano a qualcuno che appartiene alla nostra stessa specie rispetto ai concetti dei valori sui quali ciascuno di noi si muove e che devono integrare aspetti di autopromozione e aspetti di generosità e di promozione anche per gli altri. Dottor Aquilar, le inclinazioni, le nostre storie, il nostro vissuto influenzano le nostre scelte, anche il nostro modo di aiutare gli altri è la forma per farlo. Sicuramente, e per questo al primo posto dobbiamo cercare di essere consapevoli dei valori che muovono consapevolmente o meno la nostra azione, e ce lo ricaviamo da quello che ci nasce spontaneo. Se qualcuno per esempio si dovesse accorgere di avere poco spazio o poco tempo per fare azioni di generosità, forse potrebbe valere la pena di fare un esperimento, di provare a vedere che cosa succede se quella persona decide di fare un'azione gratuita, benefica per qualcuno, e valutare poi le emozioni che in lui ne vengono suscitate. Come e questo si può sente? Creare un cambiamento, un'autodeterminazione nei nostri valori, anche a prescindere dalle esperienze negative che abbiamo avuto prima. Quindi seguiamo questo consiglio del dottor Aquilar, si prova e poi si sta a vedere che cosa succede. Esattamente. E questo potrebbe essere la molla di un cambiamento. Non so, pensavo che le persone che avrebbero chiamato sarebbero state in difficoltà, come lo ero io. Tutto qui. E non è quello che succede. Non penso di aver aiutato qualcuno. Però basta una sola persona, sai. A un certo punto risponderai a quel telefono e la persona dall'altra parte avrà davvero bisogno di te. Telefono amico, come posso esserle d'aiuto? Non so se... se ho fatto bene a chiamare... Sto passando un periodo difficile, ho solo bisogno di parlare. E in linea con noi abbiamo Paolo di Progetto Itaca, l'Associazione Volontari per la Salute Mentale. Benvenuto, ciao Paolo. Ciao Nicoletta, come stai? Io sto bene, grazie Paolo. E io vorrei che oggi tu raccontassi perché, che cosa ti ha spinto a diventare volontario? Beh, io dico la verità, Ho sempre pensato di fare del volontariato perché fra i miei, quando avevo 30 anni e 50 anni, ho vissuto negli Stati Uniti e nel Nord Europa e vedevo che c'erano alcuni colleghi, amici che verso i 60 anni riducevano il lavoro e dedicavano un po' del loro tempo al volontariato. E è un modo per restituire alla società il tanto che uno ha avuto, in particolare se uno è stato privilegiato dalla nascita, dalla famiglia, dalla fortuna. E forse anche un po' l'etica protestante, forse in Italia è una motivazione un po' meno sentita. No, nel mio caso è stato così. Quindi una restituzione. Il voler restituire, fare gratuitamente per gli altri ti fa sentire bene perché è la cosa giusta e quindi sei contento. Ecco. In linea con noi abbiamo un altro volontario, immagino, ci chiama Alessandro da Napoli all'800240024. Alessandro, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Niente, io voglio associarmi un po' a quello che stavate dicendo. Io sono un credente evangelico già da diversi anni, sì, che mi occupo di volontariato sotto la stazione a Napoli centrale, diciamo. E niente, volevo dire questo. Io personalmente è un periodo di tempo che addirittura sto portando mia moglie e mio figlio di 11 anni e mezzo con me, con altri ragazzi stesso della mia comunità, sì, da diverso tempo. E dico questo, la cosa importante non è il fatto che ti fa stare bene all'interno, diciamo, del fatto che tu faccia del bene, eccetera, sì, ma è qualche cosa che nasce dentro, almeno per quello che mi riguarda, è una vocazione proprio, quello del fatto di fare questo. Io ho a che fare con prostitute, ho a che fare con tossicodipendenti, ho a che fare con barboni, con persone, diciamo, a livello culturale che vengono considerate, sì, certo. E io le dico questo, personalmente è un'esperienza straordinaria, ma soprattutto le voglio dire anche un'altra cosa, giusto 30 secondi ancora rubo. Non solo noi abbiamo la possibilità di portargli da mangiare, stiamo insieme a loro a mangiare proprio perché gli facciamo vedere che effettivamente quel cibo che noi facciamo, a parte che lo facciamo noi direttamente, sì, con le nostre mani, ma per poi abbiamo un tempo di preghiera, un tempo di canto, un tempo di adorazione, cioè dove le persone non solo stanno bene a livello fisico, ma soprattutto quindi condividete anche una fede religiosa. Ma Alessandro, grazie per la sua testimonianza. Ritorno a Paolo di Progetto Itaca. Tu, Paolo, hai scelto un'associazione che si occupa di salute mentale, quindi sì, ecco, perché fra le tante proprio quella? Come hai fatto a scegliere? Ma l'origine appunto è stata una decina d'anni fa che avevo deciso di ridurre l'impegno lavorativo di una giornata alla settimana e allora ovviamente anche riducendo lo stipendio e ho detto dedico mezza giornata al volontariato e sono andato a guardare un libretto che ho trovato in una libreria con le ONLUS di Milano, quindi le associazioni di volontariato di Milano. Detto, allora internet non era ancora mi oriento giornata. Un po'. Quindi ho scartato tutto quello che era, ce n'erano 180, non ricordo, ma tutto quello che riguardava cose che avevano a che fare con tipo le autoambulanze, perché io svengo se vedo il sangue, poi non so, tutto quello che è troppo cattolico perché non è adatto a me, sì, e alla fine ne ho chiamate tre o quattro. E ho scelto Itaca, sì, che era un'associazione appena nata, sì, che aveva un corso di formazione che cominciava la settimana dopo. E tu hai detto è un... Io non sapevo niente di salute mentale, proprio zero, però mi è sempre interessato il cervello. Sì. E poi ero rimasto veramente colpito dalla persona che mi ha intervistato, che è una delle fondatrici. E quindi ho cominciato con la linea d'ascolto, interessantissimo. Una linea d'ascolto che tra l'altro è sempre attiva. Certo, certo. Vorremmo ricordare il numero certo, verde del progetto Itaca? 800 274 274. A chi magari è, per chi è interessato magari a diventare volontario, ma anche per chi ha bisogno d'aiuto, soprattutto chi vuole avere conforto, informazioni eccetera, se soffre lui o altre persone della famiglia vicino di depressione, ansia, attacchi di panico, anoressia, bulimia, eccetera. Grazie a Paolo, volontario di Progetto Itaca, volontario per restituire quello che la vita gli ha dato, volontario che ha scelto un'associazione che si occupa di salute mentale proprio anche perché per evitare una situazione come quella dell'ambulanza, ricordavi tu Paolo, della paura del sangue, che sono proprio paure di cui noi parleremo anche oggi. Grazie a Paolo, buona giornata. Dottor Aquilar, mi vuole fare un commento di questi due interventi di volontari molto diversi tra di loro? Sono molto diversi, che però condividono il fatto che non c'è la discrepanza tra sviluppo di sé e sviluppo dell'altro. Nel senso che, per esempio, Paolo ci raccontava come sia stata per lui un'esperienza molto interessante quella di fare il corso di formazione, ha avuto occasione di apprendere delle cose e quindi le due modalità, quella dello sviluppo di noi stessi e del favorire lo sviluppo degli altri, non sono assolutamente incompatibili e sono la stessa cosa per certi aspetti. Per sviluppare noi stessi, come diceva prima la collega, serve anche di aiutare le persone a sviluppare gli altri. Nel caso invece di Alessandro è una differente situazione di motivazione personale. La motivazione all'accudimento va inserita nel proprio sviluppo personale e spirituale. Anche in questo caso, ed è questo il fattore che credo valga la pena di tenere presente, che non c'è discrepanza, non sono due cose contrastanti, perché dobbiamo stare anche attenti al fatto che ci sono alcuni che sono troppo altruisti, si parla sempre di quelli troppo egoisti, ma ci sono alcuni che sono troppo altruisti, che quindi dividono le risorse dimenticandosi di prendere delle risorse per sé. Dobbiamo stare attenti e usare le nostre emozioni come strumento a dividere in parti eque, una parte per noi stessi perché anche noi abbiamo diritto ad aiuto, a vicinanza, a sentirci autorealizzati e contemporaneamente sviluppare noi stessi anche nel dare una mano alle altre persone. Questo può essere il senso comune degli interventi di Paolo e di Alessandro. E noi andiamo a Modena perché c'è Giuseppina e poi a Varese Anna. Giuseppina, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti voi. La mia esperienza riguarda 3 anni che ho svolto nella scuola, durante la scuola media di mia figlia, durante la scuola media sì, inferiore che ha frequentato mia figlia. Ho aiutato un pomeriggio a settimana dei professori che partecipavano a un'attività chiamata Compiti Insieme. Bella idea. Bellissima, molto. In cui dei ragazzi indicati chiaramente dal consiglio di classe per vari motivi venivano aiutati a fare i compiti nella preparazione dei compiti. Nella preparazione dei compiti, ma l'attività non era, diciamo, finalizzata soltanto allo svolgimento dei compiti. È chiaro che bisognava ripetere la geografia, la storia, certo, la matematica, ma voleva rendere questi ragazzi sicuri. Perché facendo in modo che qualcuno dicesse loro bravo, ce la puoi fare, continua così. Giuseppina, e questa esperienza comunque mi sembra che le sia rimasta nel cuore e le ha dato molto. Tanto, io non so cosa, io forse ho dato, ma i ragazzi hanno dato tantissimo. A lei. Perché si sentivano, diciamo, amati nel senso proprio seguiti, ecco, questo forse mancava a questi ragazzi. Grazie Giuseppina per il suo racconto. Andiamo ad Anna da Varese. Anna, sì, buongiorno. Io ho appena iniziato il mio percorso di volontariato facendo il corso di Croce Rossa con mio figlio. Sì, quanti anni ha suo figlio? Mio figlio ne ha 19. Ah, ecco, appena finito la maturità ha fatto servizi sociali. E siccome voleva farlo però da solo, dice la sera è tardi, detto, ok, vengo anch'io. Abbiamo cominciato insieme, siamo al secondo corso, sì, è impegnativo, sì, però è una bella soddisfazione. Vi dà grande soddisfazione. E, sì, e siete bravi nel corso? Come... Abbastanza. Insomma, abbastanza, ve la cavate. Ce la caviamo. Si torna anche un po' a scuola, dottor Aquilar, per fare il volontario. Parliamo dei corsi, mi riferisco ad esempio al corso citato da Anna e a quello di Paolo, il volontario di Itaca, ma ci sono proprio... è un'idea che... per molti è proprio insopportabile. Ci sono persone che mi stanno scrivendo: l'idea del corso di essere messo in squadra non fa per me. Dottor Aquilar. E anche in questo noi dobbiamo rispettare le nostre differenze. Ognuno di noi è fatto in un modo. e possiamo rispettare e considerare come un arricchimento la possibilità di muoverci in un settore di volontariato che sia più consono alle nostre caratteristiche, come nel caso di Giuseppina, quello di collaborare con i bambini che fanno i compiti, o nel caso di Anna, di collaborare con la Croce Rossa. Ma al primo posto, se noi proviamo ad inserire anche l'idea di volontariato, noi vedremo che possiamo riorganizzare il nostro tempo. Quante persone perdono un sacco di tempo in cose inutili senza avere un vantaggio proficuo né per sé né per gli altri? Finiscono con l'interrompere l'attività mentale, l'attività emotiva, l'attività relazionale, e sono come spenti, come in un fattore di sospensione. Se quindi noi invece proviamo a ristrutturare deliberatamente il nostro tempo, potremmo avere un'eccellente occasione di arricchimento mentale, emotivo e relazionale, e naturalmente dobbiamo cercare di trovare il volontariato che sia più adatto al nostro settore. Certo, di questo la qualità della vita. Dottor Aquilar, devo dare la linea, mi scusi, la interrompo, a proposito di tempo, devo dare la linea ai mercati, poi ritorniamo subito dopo. A volte non dominiamo tempo, ma qualcosa di ugualmente prezioso, vitale, il nostro sangue. Essere e benessere. Ora passo a presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Campbell. Eccola qua! Guardatela! Non è bellissima! Ha appena donato il sangue e ne ha ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì! Il tuo miracolo! Dottor Aquilar, donare tempo, donare sangue. Due doni diversi ma ugualmente importanti. Certo, certo, perché ognuno può trovare, appunto, come dicevamo, il suo modo di donare qualcosa che ha un senso nella sua struttura mentale e nella struttura delle sue emozioni e dei suoi valori. In linea con noi abbiamo il dottor Aldo Zino Caligaris, presidente FIDAS, che è la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, bentrovata dottoressa Carbone. Sappiamo che per donare è necessario avere 18 anni, non avere superato i 65, essere in buone condizioni di salute, pesare almeno 50 kg. Questi sono i requisiti minimi, poi è opportuno ovviamente sottoporsi a un'accurata selezione medica per poter escludere eventuali rischi di salute sia per il donatore che ovviamente per il ricevente. Dottore, come vanno le donazioni in Italia? In questo momento devo dire che c'è un costante e leggero aumento anno dopo anno che consolidano quelli che sono gli obiettivi prefissati dal Piano Nazionale di Autosufficienza. C'è da dire però che il costante aumento della qualità e della quantità della medicina e della chirurgia, della medicina dei trapianti, delle cure oncologiche portano, e soprattutto un fattore importantissimo che è l'aumento dell'età media dei cittadini, portano a un costante aumento del fabbisogno trasfusionale. Di conseguenza non dobbiamo fermarci di fronte a questi leggeri incrementi di donazioni, ma è necessario sensibilizzare e incentivare i donatori a continuare a compiere questo gesto di grande importanza civica per poter rispondere oggi, ma soprattutto domani, a quelle che sono le esigenze per i pazienti e gli ammalati, ma direi anche per tutti i cittadini, perché chiunque in una situazione di emergenza e di urgenza può aver necessità di una trasfusione di sangue per avere salva la vita. Abbiamo in linea con noi Damiano da Milano e Alessandro dalla provincia di Verbania. Buongiorno Damiano, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Pronto? Noi siamo qua, pronti per eccomi, lei. Sì, attento, buongiorno. Eccoci. Eccoci. No, io volevo dire la mia. Io faccio da poco tempo, un annetto circa, il soccorritore volontario sulle ambulanze presso un'associazione di Milano. E quello che ha spinto me è il fatto che qualche anno fa, ho avuto bisogno e sono stato pescato dalla collottola proprio da questi ragazzi volontari, giovani e non giovani, che insomma mi hanno portato in ospedale in tempi brevi, e quindi io adesso sono ancora qua. Una sorta di restituzione, perché una sorta di restituzione. Mi sono sentito un po' in debito verso la società per questo servizio che sì, è affidato anche ai dipendenti delle Croci, ma per gran parte del tempo. Bravo Damiano, è una bella storia la sua, perché molti diventano volontari proprio spinti da un'esperienza personale. Dottor Zino Caligaris, Anche tra i donatori di sangue ci sono storie simili. Sì, molto spesso un donatore si avvicina alla donazione proprio perché un amico, un conoscente, un parente ha avuto necessità di sangue e ha toccato con mano la difficoltà spesso di vedere la difficoltà stessa di reperire questo presidio insostituibile che è la terapia trasfusionale per poter fare un intervento, per continuare le cure, per poter migliorare le condizioni del malato. Però io direi che oggi fortunatamente attraverso una divulgazione, un'informazione costante delle campagne fatte soprattutto sui giovani nelle scuole, si avvicinano molte persone alla donazione del sangue, al di là della bellissima testimonianza di Damiano, insomma, senza dover aver avuto bisogno di restituire certo qualche cosa ricevuta proprio in precedenza. Alessandro, dalla provincia di Verbania, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Volevo portare appunto la mia esperienza personale. Io nel 94 ho subito un intervento a un legamento, per cui sono andato ovviamente in ospedale e mi sono reso conto della disponibilità e della cura che delle persone che per loro io ero sconosciuto avevano nei miei confronti. Per cui mi sono domandato come cosa potevo fare per gli altri e ho iniziato a donare il sangue dal 94 e oggi ho 44 anni. Sono orgoglioso di quello che sto facendo e di quello che spero di continuare a fare ancora. In più, per rispondere un attimino a quello che la sua ospite aveva detto, pensate di se fate veramente qualche cosa senza aspettarvi nulla. Volevo aggiungere che soventemente mi capita di incontrare persone che mi chiedono la carità, capita nelle grosse città in particolar modo, visto il mio lavoro viaggio spesso, non solo in Italia, e tendenzialmente il mio modo di comportarmi non è quello di porre denaro alle persone, ma bensì di invitarle in un bar, in un ristorante e pagargli quello che desiderano prendere per mangiare. Esattamente, esattamente. Grazie Alessandro. Dottor Aquilar, in qualche modo il darsi agli altri cambia un po' l'assetto della propria del proprio modo di pensare, del proprio modo di gestire la vita, no? Abbiamo sentito il racconto di Alessandro. Ti cambia un po' la testa, forse è quella quantità di materia grigia che si mette in moto. Certamente cambia l'assetto e cambia la gerarchia dei valori. Quindi i nostri valori continuamente a seguito dell'esperienza si modificano e si mettono in un ordine diverso. Ridefinire questa scala di valori rappresenta appunto un buon modo di apprendere dall'esperienza. I due ascoltatori ci hanno parlato di due esperienze positive che hanno dato loro lo spunto per prendere altre iniziative. Dobbiamo essere poi capaci di apprendere anche dalle esperienze negative e fare il contrario di quello che ci è capitato in un'esperienza negativa. Ci sono ancora però dei pregiudizi e dei timori che in qualche modo frenano la donazione, dottore. Ad esempio la paura del lago, molti temono di svenire, di fare una figuraccia, ma anche, la metto per ultima e non in ordine di importanza, la paura per la propria salute. Mi spiego meglio. Se il sangue serve nelle giuste quantità, cosa mi succede se me ne tolgo una parte? Come reagirà il mio fisico? Dottor Ozzino Caligaris. Dunque, il sangue donato è ovviamente donato in una quantità che è stabilita con dei parametri, dei criteri scientifici molto rigorosi ed è fissato con dei criteri di legge. Però c'è da dire, a tutela proprio della salute del donatore, che la parte di sangue sottratto costituisce un tredicesimo a volte di quello che è, se non addirittura meno, a seconda del peso del donatore, il volume del sangue circolante. E la parte del sangue sottratto viene di fatto reintegrato dall'organismo in due modi: le parti cellulari, quindi globuli rossi, globuli bianchi, vengono immessi in circolo dagli organi di deposito che sono la milza, il fegato in parte e il midollo osseo. La parte liquida viene reintegrata addirittura in tempi molto più rapidi, entro le 24 ore successive alla donazione. Di fatto quindi la donazione del sangue è sì un atto volontario, come ha detto molto bene prima Alessandro, anonimo, cioè non si sa verso chi si fa, e soprattutto gratuito, perché è vietata la commercializzazione del sangue in alcun modo. Però è tutelata soprattutto l'aspetto della salute del donatore, che vede, a fronte di questo suo impegno di sottrarsi di una parte del proprio corpo umano, la capacità dell'organismo di reintegrarlo in maniera rapida e soprattutto senza conseguenze per la propria salute. Dottor Rosino Caligaris, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Vogliamo rivolgerci ancora alle persone che non hanno donato sangue, magari per invitarli a donare, dottore? Grazie, grazie a voi e soprattutto io colgo l'occasione per formulare a tutte le persone che godono di buona salute, che sono maggiorenni ma anche che non possono donare, di invitare magari amici, parenti, conoscenti ad avvicinarsi a questo gesto. Il sangue non si fabbrica in laboratorio e non si produce in industria, l'unico modo per averlo è attraverso proprio un gesto di volontariato, una disponibilità, un dare qualche cosa di sé agli altri, e questo garantisce veramente la vita, garantisce la sicurezza, garantisce un sistema sanitario nazionale di cui spesso oggi abbiamo delle criticità, ma che funziona bene grazie soprattutto all'opera di tanti professionisti, ma in maniera particolare per quello che riguarda soprattutto la medicina trasfusionale, unicamente attraverso le donazioni di persone volontarie e responsabili. Grazie dottor Rosino Caligaris per essere stato con noi. Grazie a voi e buon proseguimento di lavoro e un saluto anche agli altri ospiti. Essere e benessere. Dottor Aquilar, quindi donare aiuta, anche noi stessi. Donare sicuramente aiuta e aiuta anche naturalmente per essere guidati in questo settore, avere le informazioni corrette come ci diceva il dottor Caligaris, perché noi abbiamo bisogno di un'informazione corretta, di una struttura organizzativa di riferimento che sia controllata e sicura, e anche della possibilità di fare un volontariato individuale o addirittura di poter creare un gruppo di azione sociale, ma rispetto a questa questione delle donazioni di sangue ovviamente serve un'informazione corretta per evitare che le persone si possano preoccupare inutilmente di alcuni rischi. Allora, in un certo senso, anche dalle testimonianze che sono arrivate oggi, possiamo dire che l'altruismo sembra essere uno degli ingredienti della ricetta della felicità, ricetta che non è ancora stata trovata, ma che tutti cercano per tanti motivi. Quando siamo felici, stiamo bene. E non è solo una sensazione, la felicità attiva, potenzia il nostro sistema immunitario. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e docente all'Università di Milano. Autore, vi ricordate, di quel libro bellissimo di cui abbiamo parlato, I Guardiani della Vita. Buongiorno professore, mi stavo dilungando. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, la felicità aiuta il nostro sistema immunitario. Lei interverrà proprio su questo tema al Festival delle Scienze di Roma, domenica sera. Quindi abbiamo una sorta di anteprima. Il sistema immunitario contribuisce al nostro benessere e alla nostra felicità, e reciprocamente ci sono molti dati che indicano che il nostro stato di benessere influenza in qualche modo, in modo positivo, il funzionamento delle cellule dell'immunità. Questi sono due grandi sistemi complessi, il sistema nervoso centrale, il cervello, e il sistema immunitario. Questi due grandi sistemi complessi si parlano. In questi giorni molti di noi, o alcuni di noi, alcuni degli ascoltatori hanno l'influenza, si sentono, virgolette, giù, non hanno voglia di muoversi, hanno la febbre. Ecco, questi sono reazioni controllate dal nostro cervello, ma ordinate dal nostro sistema immunitario. E reciprocamente il sistema nervoso centrale controlla delle funzioni essenziali del nostro sistema immunitario. Ecco, questo dialogo fra cervello e sistema immunitario cominciamo ora a capirlo e a capirne le implicazioni. Grazie professore, quindi alle persone che adesso hanno l'influenza possiamo anche dire: fatevi una coccola, cercate di tenervi su con il morale, perché anche il vostro sistema immunitario così si ripiglia. Sì. Possiamo dire così? Assolutamente sì, è un buon suggerimento. Grazie professor Mantovani, buona giornata. Buona giornata a lei e agli ascoltatori. So che vi renderò felici e allora ho pensato di... sono le 11:51, è il nostro momento, il nostro spazio di felicità, ce l'abbiamo solo noi, per voi. siete anche voi un po' emozionati perché noi stiamo ascoltando Brothers, un brano in anteprima del CD del maestro Ludovico Einaudi in Time Lapse, che uscirà martedì 22 gennaio. E dicevo, solo da noi, per voi, questa grande occasione, un'anteprima. Allora, e noi che cosa abbiamo pensato? Lo stiamo già facendo da un paio di giorni con grande successo. Voi ascoltate e descrivete in un breve testo un'immagine, una storia, un'emozione, un ricordo proprio attivati dall'ascolto di questo brano, e tra tutti i testi inviati a esserebenessere@radio24.it il maestro Einaudi, che sarà qua in studio con noi lunedì negli studi di Milano, ne sceglierà quattro che riceveranno o una copia di biglietti per una data della tournée o una copia del nuovo CD che naturalmente faremo autografare. Scrivete allora, ascoltate e scrivete, potete anche riascoltare sul nostro sito. Maria Grazia, buongiorno da Brescia. Buongiorno Nicoletta, che piacere sentirla, congratulazioni vivissime per la tua grazie. Ti ascolto ogni volta che posso. Grazie Maria Grazia. Allora, la mia testimonianza molto velocemente, io ho 64 anni e da 5 anni sono in pensione. Io ho cominciato più di 20 anni fa, ho fatto volontariato nel campo della tossicodipendenza, ovviamente una volta era diversa la tossicodipendenza rispetto ad oggi. Dedicavo una sera alla settimana e un pomeriggio quando potevo a seguire i ragazzi, quindi per tenerli in compagnia, per chiacchierare con loro, per cercare di capire le loro motivazioni, insomma, cose di questo genere. Poi questa esperienza mi ha spinto verso la politica amministrativa del mio piccolo paese, dove ho fatto per 8 anni l'assessore, quindi anche questo era volontariato, perché certo, loro non c'era stipendio, c'erano tante nottate, tante discussioni, tante ore. Adesso che sono in pensione, ho 5 nipotini, tra poco nasce la 6ª nipotina, e quindi il mio volontariato adesso è questo fondamentalmente. Quindi bello pesantuccio. Pronto. È bello pesantuccio questo volontariato, Maria Grazia. No, ma non impegnativo. No, ma io non seguo tutto il giorno i miei nipotini, i miei figli si sono organizzati. Ogni tanto scappa anche lei, Maria Grazia. Sempre, per tutti i casi di emergenza, per le necessità e per il piacere di stare con i nostri nipoti, che certo, è una cosa molto bella. Ecco, quello che io volevo dire è che secondo me... Maria Grazia? Non la sentiamo più. Dottor Aquilar, Maria Grazia ci ha raccontato il suo nuovo volontariato, i nonni. E certo, perché c'è in comune appunto l'aumento del significato personale. In una fase della vita io posso dare aiuto alle persone, come nel caso di Maria Grazia, con problemi di tossicodipendenza. In un'altra fase della vita posso dare una mano a questi nipotini. Certo. Tutto aumenta il nostro significato e le nostre emozioni di compagnia e di serenità. Dottor Aquilar, grazie per essere stato con noi. Mi piace molto stare con lei in onda. Buona giornata al dottor Aquilar. Buona giornata a voi, a Carmelo Lauricella, in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi, in redazione preziosissima. Vi ricordo che potete come sempre scaricarci, anzi fatelo, scaricatemi. E se volete potete riascoltare il brano di Einaudi. Radio 24, la passione si sente. Essere e benessere.